Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di un grandissimo artista, uno dei sommi della pittura italiana, cioè Antonello da Messina, lo conosciamo tutti, ma il personaggio rimane enigmatico anche per l'impressione che spesso ci trasmette con certi suoi ritratti, come l'Annunciata di Palermo o l'Ignoto marinaio di Cefalù. Per farcelo conoscere meglio, una scrittrice, Silvana Laspina, ha scritto una biografia romanzata di questo grandissimo artista del Rinascimento che si intitola L'uomo che veniva da Messina, è pubblicato da Giunti, 350 pagine, 18 euro. Di Antonello la Spina ricorda che si sa molto poco, per l'appunto molti degli stessi suoi capolavori per lungo tempo furono attribuiti ad altri artisti. Gli elementi biografici su cui ci si è soffermati sono spesso ambiguo. Sappiamo, o almeno è passato alla storia, Antonello, oltre che per la sua arte, per aver introdotto, essere stato uno di quelli che ha introdotto in Italia la pittura ad olio, per i rapporti con la pittura veneta, in particolare con la famiglia dei Bellini, e per i suoi viaggi per tutta l'Italia. Elemento certo della sua vita è l'origine geografica. Antonello è l'unico eccelso artista nato in Sicilia. Una Sicilia, scrive l'autrice, già allora abbandonata al sopruso dei più forti, a quella vara Catalogna che segnerà per sempre l'anima del suo popolo. E allora, aggiunge la Spina, stupisce il suo genio in un'epoca per la Sicilia povera di geni. Stupisce la sfrenata ambizione che gli fece superare la timidezza e le paure isolane. Qui Antonello al termine della vita, nel 1479, e racconta al suo vecchio maestro Colantonio la propria vita e le proprie esperienze. E nel libro troviamo appunto non soltanto gli elementi biografici, ma questo sforzo di continua ricerca del grande pittore di cui adesso parliamo con l'autrice. Buonasera Silvana Laspina. Buonasera. Silvana Laspina, del vero Antonello da Messina, come lei stessa scrive nel libro, si sa molto poco della sua vita. Che cosa pensa di avere scoperto della vita e soprattutto della personalità di Antonello che troviamo in questo libro? Dai pochi elementi che avevo, tratto dai critici dell'epoca, dagli atti dei notai, specialmente dall'atto di morte, ho capito che, se vogliamo dirlo, era quasi un rivoluzionario. Non a caso si fa seppellire nel convento dei Frati Osservanti, i quali, ho scoperto, sono importantissimi nella storia della pittura del 1400. Non a caso ho notato il loro nome anche nei pannelli della mostra di Leonardo da Vinci, che significa che questi frati hanno dato un impulso strano alla pittura italiana. Ecco, una protagonista del suo libro, accanto a Antonello, è la Sicilia. Che Sicilia viene fuori da questo libro, da questa ricostruzione? Spesso lei parla di una Sicilia opportunista, scrive a un certo punto: la Sicilia tutta si è venduta alla nuova dinastia e all'arte di far denari. Più avanti dice: quando parliamo noi siciliani lo facciamo sempre per mentire. Non viene fuori un quadro molto positivo di questa Sicilia di Antonello? Diciamo che quello è il momento in cui la Sicilia diventa colonia. Da quel momento la Sicilia non sarà più né regno, non sarà più niente. Antonello vive il passaggio da un regno che bene o male ha interesse a far funzionare la sua terra a una terra in mano a dei baroni, possibilmente alcuni già mafiosi. Quindi è proprio il momento in cui la Sicilia si perde nella storia. Emerge dal libro una personalità molto forte di questo pittore, che a un certo punto dice di essere animato da una infernale ambizione di avere una natura di lupo. Come mai ha dato questo ritratto di Antonello? Non fosse altro perché Vasari lo descrive come venereo, che significa una specie di Paolo il Caldo. Quindi mi è venuto fuori un uomo da un lato ambizioso, perché solo questa grande ambizione poteva spingerlo ad andare per unico per il mondo. Bene o male un isolano, l'isolano fa fatica ad andar via, non a caso per me rappresenta tutti i siciliani che vanno e poi tornano. Alla fine la sua vita la chiude poi in Sicilia. E nel suo libro in questo aspetto ha una grande importanza anche per le grandi frequentazioni che Antonello ebbe, i legami con grandi artisti, con la pittura fiamminga, in particolare con quella veneta. Se Antonello non avesse avuto queste frequentazioni non sarebbe diventato Antonello, perché la Sicilia sicuramente non gli avrebbe dato quel lustro che lui meritava. Non a caso anche gli autori, gli storici del 600 e del 700 lo nominano appena in Sicilia, mentre altrove era già considerato un grande. Quindi è stato per lui la salvezza essersene andato. Il problema, metaforicamente, mi chiedo se non sia la salvezza per tutti gli artisti. A proposito di Venezia, però, anche qui Antonello ebbe un rapporto duplice, nel senso che ne sentì il fascino e entrò in contatto con la scuola veneta. Però a un certo punto scrive: Venezia è la morte. Per anni avrei sognato di naufragare nel mare di Venezia. Quando mi svegliavo provavo una sensazione di soffocamento mai sentita prima. Come mai? È perché lui è un melanconico, è un figlio di Saturno, poi alla fine, un saturnino. Non a caso ha questo duplice aspetto, da un lato di ambizione e da un lato desiderio di morte. È un artista in senso moderno, se vogliamo. E l'artista in senso moderno ha sempre questa doppia faccia, camaleonte, forte e debolissimo. Un aspetto della modernità di Antonello è la sua grande fiducia in se stesso e il rapporto con il potere. A un certo punto, infatti, nel libro parla del rapporto, anche del rapporto conflittuale con il padre, proprio su questo tema del potere, e poi scrive anche che appunto il padre gli aveva insegnato a guardare in basso quando passavano i potenti. Lui rivendica di aver reagito a questa educazione e di voler essere un pittore, non un cortigiano. Che cosa rappresenta questo elemento nella sua vita? Nella vita di Antonello non so, perché è una vita naturalmente che ho inventato. Gli affetti, i familiari sappiamo pochissimo. È coerente, secondo me, un personaggio così ambizioso che ha ereditato questa immagine del nonno che a suo modo va via, quindi anche lui vuole andare via. C'è questo senso, questo bisogno di fuga per emergere, per diventare qualcuno. E la sicurezza di capire che cos'è l'arte. Lui l'ha capita e quindi da ragazzino si sente inferiore ai fiamminghi, ma vuole capire, vuole conoscere, ecco. Non è arrogante, è sicuro ma non arrogante, vuole sapere che cos'è quest'arte nuova, gli altri invece si contentano di rimanere. L'arte nuova di Antonello è molto spesso appare come una pittura perfetta, quasi idilliaca, però Antonello era convinto che la pittura fosse figlia del demonio, che lui stesso non era affatto innocente. Come mai questo contrasto fra la forma della sua pittura e queste convinzioni? Perché è un siciliano. Quindi le troviamo le tracce anche nel suo libro? Sì. A un certo punto lei ricorda i rapporti che furono molto intensi dal punto di vista intellettuale, ovviamente, fra Antonello e Piero della Francesca, e dice che da Piero della Francesca Antonello imparò una cosa, cioè che la crudezza vale più della bellezza, e questo un po' va nella linea delle cose che dicevamo prima. Sì, e la crudezza nel senso che Piero della Francesca è un uomo che vede solo l'arte, tutto il resto non gli interessa, quindi è crudele anche con se stesso, non ha parenti, non ha amici. Piero della Francesca è un uomo solo perché deve indagare l'arte come Antonello, solo che Antonello ha l'ossessione della carne che Piero della Francesca non ha. Sul finire del libro a un certo punto Antonello riconosce di aver amato solo una cosa, il mio lavoro, la mia arte, per questo scrive sono stato dappertutto a piedi, a cavallo, a dorso di mulo, solo che non è stato un amore ricambiato. Perché non si sente ricambiato Antonello? Perché tornando in Sicilia riconosce che capisce che la Sicilia non lo ha riconosciuto come grande pittore. Quindi questo è un libro anche proprio sul rapporto fra amore e odio con la Sicilia. Beh, credo che un siciliano non possa fare a meno di esprimere un giudizio di questo tipo, visto il rapporto che tutti gli artisti hanno con la propria terra. Il problema è capire perché i siciliani sono così. La chiusura dell'isola comporta questo. Forse sarebbe veramente necessario un ponte in tutti i sensi. Lei conclude il libro con un'avvertenza nella quale ricorda che Antonello è stato l'unico pittore eccelso della Sicilia. Come mai la Sicilia ha dato vita a tanti grandissimi scrittori e a pochissimi artisti? Credo che la causa fu l'Inquisizione. Subito dopo sarebbe arrivato l'Inquisizione spagnola. Era arrivata la peggiore inquisizione e questo ha impedito senz'altro sia l'evolversi della scienza sia l'evolversi della pittura. Gli scrittori poi sono venuti dopo. Diciamo che l'inquisizione ha ucciso secoli di creatività siciliana. Grazie a Silvana Laspina, autrice dell'Uomo che veniva da Messina. Grazie. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Giacomo Poretti, Al paradiso è meglio credere, pubblicato da Mondadori, 108 pagine, 17,50 euro. Qui troviamo un Antonio Martignoni che manda una sorta di messaggio nella bottiglia dal paradiso dove si trova e da dove rievoca la propria vita caratterizzata da un periodo in cui si era fatto addirittura prete e anche dal rapporto con Milano. Il secondo libro è di Henning Mankell, uno scrittore che forse è lui stesso in paradiso perché ci ha lasciato il mese scorso. Mankell è un autore svedese, fortunatissimo, autore di una serie di libri polizieschi, il cui ultimo titolo è Sabbie mobili, l'arte di sopravvivere, pubblicato da Marsilio, 320 pagine, 18 euro, tradotto da Laura Cangemi. Questo è un libro dedicato a un fornaio che è morto a Pompei e vi viene raccontata la scoperta del male, che poi porterà alla tomba lo scrittore, delle ultime appassionate riflessioni alla ricerca di nuovi attimi di grazia, scrive Mankell, in cui nessuno mi privi della gioia di creare io stesso o di vedere ciò che altri hanno creato. E infine vi segnalo un libro di azione di un altro autore molto famoso anche per le precedenti carriere di attore, Robert Ludlum, morto nel 2001, di cui esce Ascendente Bourne, scritto con Erich van Lustbader, tradotto da Barbara Porteri per Rizzoli, 412 pagine, 19,50 euro, che è un'ulteriore tappa della saga appunto di Jason Bourne, che qui si trova a che fare con un complotto terroristico che vuole condizionare le scelte della politica. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vi parlo adesso di quattro autori italiani, alcuni anche molto noti e popolari. Comincio con Roberto Gervaso, prolifico e notissimo giornalista e scrittore, che pubblica un libro dedicato a uno dei generi che gli è più congeniale, ossia l'aforisma, brevissimo e fulminante componimento che racchiude una visione del mondo. Il libro si intitola La vita è troppo bella per viverla in due, breve corso di educazione cinica, è pubblicato da Mondadori, 276 pagine, 19 euro. Gervaso ci fa qui una breve introduzione al genere dell'aforisma, coltivato da grandissimi autori, da Marco Aurelio fino a Karl Kraus, che in Italia ha avuto relativo successo perché, dice Gervaso, la nostra è una paludata e superbiosa tradizione accademica che ha sempre ostacolato la fioritura di una forma letteraria tanto schietta, cruda e irriverente, scevra di lenocini, arzigogoli, di formalismi, gesuitismi e tartufismi. E ricorda i grandi campioni di questa arte italiana, Leo Longanesi, Mino Maccari ed Ennio Flaiano. E questi aforismi sono raccolti per materia. Ve ne leggo alcuni sull'economia. Al ricco preferisco chi ha voglia di arricchirsi. Chi dice che tutti i ricchi vanno all'inferno non ha conosciuto certi poveri. Chi ha fame sa quel che vuole. Come si può amare la ricchezza senza aver conosciuto la povertà? Il denaro è il bene superfluo più utile. Oppure sulla materia che credo vi appassioni tutti, i libri. C'è un solo modo di scrivere, bene. Certi libri bisognerebbe leggerli prima di scriverli. Oppure su un tema che è congeniale a me, l'informazione. Il buon giornalista racconta quel che vede, il cattivo quello che vogliono vedere gli altri. Oppure ancora sulla politica, un tema di moda. Il radical chic è un complessato che si crede un idealista. Insomma, lo stile dissacrante di Gervaso, ben noto ai suoi ammiratori, viene qua distillato in un paio di righe e raggiunge punte inarrivabili di perfidia e quindi anche di divertimento. Un altro nome molto noto è quello di Vittorio Sermonti, il grande divulgatore di Dante e non solo, ma anche saggista, regista, attore, che ha predisposto una sorta di auto-antologia, Il vizio di scrivere, pubblicato da Rizzoli, 660 pagine, 23 euro. Un libro sul quale lo stesso autore ironizza dicendosi disturbato dal retrogusto un po' testamentario, ma anche compiaciuto nel proprio narcisismo, che ci permette peraltro di accostarci a pagine magari più difficili da rintracciare. Troviamo qui per esempio una traduzione di Sermonti del Tartufo di Molière, delle schedine sui alcuni fra i maggiori scrittori italiani del 5 e del 600, la parafrasi molto sdrammatizzante delle maggiori opere di Verdi, dei coccodrilli, cioè degli scritti dedicati a persone che ci hanno lasciato, e molti altri temi, compresi dei versi dalla levità simili agli aforismi di cui abbiamo parlato poco fa, e delle righe che l'autore chiama siparietti, finora inediti, dai quali ve ne propongo un paio. Non c'è niente di più bello al mondo che perdere tempo senza scrupoli e senza rimorsi, solo che richiede un'applicazione tremenda. Per sedare il suo insaziabile snobismo gli era più che sufficiente frequentarsi. Andare a trovare un nipotino per consolarlo dell'insofferenza che gli procura il fatto che tu sia andato a trovarlo non è allegrissimo. Le mie nostalgie mi annoiano. Figurarsi quelle degli altri. Non solo perdi il tuo tempo scrivendo romanzi, ma pretendi di perdere anche quello degli altri facendoteli pubblicare. Per fortuna ci sono le crisi, cioè i tempi in cui gli esseri umani si rinfacciano la realtà. Quando lo legge una persona volgare e scema, ogni libro è volgare e scemo, chiunque l'abbia scritto. Un'altra sorta di antologia è quella curata da Walter City, La voce verticale, 52 liriche per un anno, è pubblicato da Rizzoli, 460 pagine, 20 euro. Questo volume è la raccolta delle rubriche comparse per un anno su Repubblica, nella quale City proponeva un testo seguito dalla propria presentazione di quel testo poetico. La poesia, spiega City nella introduzione, colpisce e affascina perché rappresenta un'atmosfera privilegiata e sottovuoto che pure contiene tutte le magagne e le contaminazioni del mondo. È fatta, aggiunge, essenzialmente di una lingua speciale che scarta rispetto alla lingua di tutti i giorni e ne costituisce quasi un'alternativa. Persino nell'opinione comune, la vocazione sembra più vera per i poeti che per i romanzieri. Il romanziere, scrive City, tira la carretta, sgobba servilmente per molte ore al giorno, riscatta la propria schiavitù col lavoro delle parole. Il poeta ha un rapporto magico e verticale con la parola che gli arriva da su o da giù come un miracolo e un omaggio. Il romanziere scrive quando vuole, il poeta quando può, se la poesia non viene, non viene. Allora si abbandona a questo vagabondaggio facendo tappa in molte liriche famose. C'è un genere che graficamente almeno si avvicina agli aforismi, che sono per esempio gli haiku giapponesi, e poi, come dicevo, troviamo poeti di tutti i tempi, opere note e meno note, e alcune addirittura celeberrime come questa di Leopardi che adesso ci legge Vittorio Gassman, e la sua lettura è seguita dal commento di City a questi versi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei, così fra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Studiando la scuola spesso ci si dimentica che è la poesia di un ragazzo appena ventunenne. Precoce sì, ma fino a quel momento aveva scritto e non pubblicato solo due enfatiche canzoni patriottiche e delle terzine d'amore inventato su una parente venuta in visita. Qui di colpo cambia tutto. Nasce una musica. Vuole scrivere una cosa breve, intima, di contatto con la natura. Al mito degli antichi greci e della loro ingenuità, come aveva letto in Schiller. Quasi senza volere crea qualcosa di inedito nella poesia italiana. Invece di raccontarci un'esperienza già fatta o abituale, ci racconta un'emozione intellettuale e psichica che lui stesso sta scoprendo in quel momento. Qui, adesso, mentre sto seduto e guardo e immagino, tanto che, e poi succede un'altra cosa, e allora io, e così, ci porta dentro nella lirica come istante. La cornice è chiara. Il primo e l'ultimo verso sono endecasillabi cristallini. Tant'è vero che tutti li abbiamo nella memoria. Ma all'interno del testo il ritmo procede per onde successive. La sintassi segue l'emozione della scoperta e travolge la metrica. Infine vi segnalo un altro scrittore contemporaneo italiano, Giuseppe Lupo, che con Marsilio pubblica L'albero di stanze, 248 pagine, 17,50 euro. Lupo, lucano di origine, è spesso tornato letterariamente nella sua terra, lo fa ancora adesso, concludendo una sorta di saga sulle genti della Lucania. All'alba del 2000, un medico sordo torna nella casa di famiglia in una terra antica che rappresenta appunto la Lucania. ritrova la sua casa enorme, abbandonata, che sta per essere venduta dopo che la famiglia l'ha occupata per più di 10 anni per poi via via abbandonarli. Ma proprio durante la smobilitazione di questa casa le stanze si animano, si mettono a parlare, non solo rievocano, ma spiegano cos'è successo in quegli ambienti, in quella casa che, scrive Lupo, è un albero di stanze destinate a moltiplicarsi in un secolo di matrimoni e battesimi, una cresciuta sopra l'altra, come un tronco di pietra. Quella casa diventa un monumento di storie, aggiunge, che si moltiplicano sulle tovaglie dei pranzi nuziali, guadagnavano altezza nelle intenzioni di un secolo fin troppo veloce per essere tenuto a mente. Il fondatore della casa è il bisnonno redentore, il quale era convinto che le parole siano pietre, la materia con cui innalzare la scala fino al cielo. La casa purtroppo non aveva affascinato la moglie francese dell'ultimo erede, appunto del medico, nonostante che il narratore avesse cercato di presentargliela in modo molto efficace con le righe che adesso vi presento. Non c'è nulla di più facile che seguire la giostra delle scale, Cecil. Sfiorare i muri con le mani, sentire il fiato del grano che ci è finito dentro e convincersi che uno può muoversi tutta la vita in questo enorme edificio. Vivere tra le barbarie, forge, officine, drogherie, stanze di sogni e di avventure e dimenticare l'uscita. Il mondo di fuori non occorre che sia creato, Cecil. Qui c'è tutto, luce, memoria, odore di autunni e primavere, il passato e il futuro. Tutto è a portata di mano, diviso da un passamano, da un soppalco, da uno spigolo. Non c'è che da scavalcare i gradini, attraversare i corridoi e non voltarsi indietro. Comprendi, Cecil? Il confettino. Abbiamo parlato di poesia, allora vi presento il padre della poesia italiana, cioè Dante Alighieri. Esattamente vi presento una versione della Divina Commedia raccontata da Paolo Di Paolo e illustrata da Matteo Berton per La Nuova Frontiera, 106 pagine, 16 euro. Questo libro che naturalmente non è un bigino della Divina Commedia, ma vuole essere una sorta di porta d'ingresso. Scrive l'autore che il viaggio vero e proprio va fatto attraverso i versi di Dante, la loro complessità, la loro musica, perché la grande poesia è una musica speciale e misteriosa, un ritmo che non si può riprodurre, ma questo è un ottimo incentivo a tuffarsi nel poema. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione e Andrea Roccabelli regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.